cosa vorresti che fosse scritto sulla tua epigrafe? Ho letto una intervista ad una nota cantante italiana, la quale, come molti altri, confessava i suoi errori, le paure, angosce e delusioni, che terminava con questa domanda: che epigrafe desidera avere sulla tomba? La risposta fu precisa e diretta: che fatica! Parlare della morte quando ancora si ha la prospettiva di vivere a lungo, quando ci si sente impregnati di vita, è una cosa. Ma quando si realizza il momento di lasciare questa terra, quando ormai tutto quello che a cui tenevamo non ha più valore, allora non si parla più alla leggera. Le dichiarazioni fatte sul letto di morte sono diverse e molto significative. Il momento unico e irripetibile della vita, si lasciano cadere le maschere che abbiamo indossato per tutta la nostra esistenza e, mentre alcuni sono costretti ad ammettere di aver costruito solo cose passeggere e inconsistenti come la sabbia, altri si rendono conto con terrore di essersi illusi o di aver creduto a delle menzogne. E il caso dell'ateista David Hume che gridò «Sono nelle fiamme», mentre Churchill disse «Che pazzo sono stato», e Jean-Paul Sartre sentenziò «Ho fallito». E che dire di Voltaire, il celebre filosofo schernitore, la cui fine fu spaventosa al punto che l'infermiera che l'aveva assistito disse «Per tutto il denaro dell'Europa, non vorrei mai più vedere morire un incredulo come lui». Si dice che la Bibbia sia un libro di favole, che sia un libro per dare una magra consolazione religiosa ai vecchi o per bigotti che hanno voglia di pregare, ma nulla è più lontano da questo. Per quanto si dica di negativo sulla Bibbia, una cosa è certa, certissima, tremendamente certa, ed è che ci insegna ad affrontare il momento più importante della nostra vita, cioè la morte. Se uomini religiosi, capi di Stato, poeti, scrittori, drammaturghi, filosofi, trovandosi in punto di morte, hanno confessato di aver sbagliato o di avere fallito l'obiettivo della loro esistenza, perché non prenderli sul serio, soprattutto in considerazione del momento in cui si trovavano, nel quale non avevano ragione di mentire? Se Cesare Borgia, un uomo di Stato, disse al momento della morte «Ho provveduto ad ogni cosa della mia vita, ma non ho provveduto alla mia morte e ora muoio impreparato», perché non ascoltare questa terrificante testimonianza e guardare in faccia la realtà? Cosa ci è di sicuro più della morte? Proprio perché il momento della morte è lo scacco matto della vita, sia per increduli filosofi che per chi vive una commedia religiosa, ho sempre letto con molto interesse la biografia di coloro che hanno dedicato tutta la loro esistenza a predicare il regno di Dio, interessandomi in modo particolare a come l'abbiano terminata. Non nascondo che spesso penso a Jan Hus quando veniva portato al rogo perché ritenuto eretico. Il suo segretario e compagno nell'ultimo viaggio descrive la cronologia di quell'avvenimento. Gli aguzzini accesero prontamente il rogo. Il maestro prese a cantare a voce spiegata, dapprima il canto «Cristo, tu figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi me», poi l'inno «Cristo, tu figlio del Dio vivente, abbi pietà di me», ed infine l'inno «Tu che nascesti dalla Vergine Maria». Ma come egli cominciò a cantare il terzo inno, una folata di vento gli coperse il viso di fiamme. E così, pregando nell'intimo, muovendo appena le labbra e scotendo il capo, spirò nel Signore. Prima di morire, mentre pregava in silenzio, sembrò balbettare giusto per il tempo, sufficiente a recitare due o, al massimo, tre volte il Padre Nostro. Per la misericordia di Dio, non tutti coloro che hanno servito fedelmente Gesù Cristo hanno terminato la loro esistenza sul rogo. Alcuni, fiduciosi di una fine migliore, hanno per tempo pensato di lasciare uno scritto volontario per la loro epigrafe come atto di testimonianza della loro fede. Due sono le testimonianze che vorrei prendere in considerazione e che mi hanno toccato in modo particolare. Sono testimonianze di due uomini che hanno servito Dio con tutto il loro zelo, con tutte le loro forze. Persone che hanno lasciato una impronta visibile nella storia della propagazione dell'Evangelo. Se qualcuno volesse Fare un confronto di chi fosse il maggiore non è possibile perché ognuno ha servito secondo i propri doni ricevuti e tutti e due avranno il premio proporzionato al loro amore per Cristo. Scrivendo l'epigrafe che prima di morire hanno deciso di far apporre sulla loro lapide, hanno lanciato un diverso messaggio che è bene cogliere, sia per onorarne la memoria, sia perché le epigrafi dimostrano due sensibilità diverse nei confronti della vita. La mia valutazione non ha lo scopo di vedere quale sia l'epigrafe più opportuna, ma incoraggiare sempre più ogni credente, salvato per grazia, a vivere quella vita abbondante che Gesù ha promesso e terminarla con un grido di vittoria. Perché chi è pieno di gratitudine predica senza fare prediche. Questi due uomini sono William Carey e Piero Guicciardini. Il primo è stato un missionario pioniere in India, nato il 17 agosto del 1761. Il secondo, un pioniere dell'evangelismo italiano vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, in obbedienza alle disposizioni chiaramente espresse nel suo testamento, sulla tomba di William Carey furono incise queste semplici parole. William Carey. Nantico Testamento, il 17 agosto, spregevole verme. Io cado nelle tue braccia misericordiose. Dunque, il messaggio lasciato da Carey è il suo aspetto umano, condiviso del resto da tutti. Tutti noi siamo coscienti dei nostri limiti e pochezze, anche se di tanto in tanto ci si vanta di ciò che non ci appartiene. Carey ha espresso il suo punto di vista in merito a se stesso, dicendo che era uno spregevole verme. Se non si fosse trattato di un cristiano, ci sarebbe stato da sprofondare con una tale visione di se stessi, avendo tuttavia conosciuto la misericordia di Dio e il suo perdono. Nel momento della morte si è rimesso nelle braccia misericordiose del suo Dio. Un gesto, questo, tipico di chi crede nel Dio delle scritture che formano la Bibbia. Ma un simile atteggiamento, dobbiamo riconoscere, ha un aspetto molto religioso. Cadere nelle braccia di un Dio misericordioso è un gesto compiuto da molti religiosi, anche perché è del tutto conveniente farlo. Nella vita si fa ciò che si crede bene, e poi ci si rimette nelle mani di Dio che, come disse qualcuno, ha come mestiere quello di perdonare. Il Padre ha dato il Figlio perché morisse in croce per salvare l'umanità e se non perdona cosa può altro fare? Non è che Carey avesse questo in mente. Tutt'altro. Carey è stato, senza ombra di dubbio, uno dei missionari più consacrati in un'opera, in confronto al quale il verme sono io. Nonostante ciò che ha fatto, Carey non confidava nel valore delle sue opere, ma sulla grazia di Dio. Questo è il bellissimo messaggio che ha voluto lasciare Carey sulla sua epigrafe. Un messaggio certamente evangelico, niente da dire, ma non percepibile da chi non ha fatto la stessa esperienza. Un passante che legge l'epigrafe di Carey comprende che è stato un grande religioso, fiducioso della misericordia di Dio. A dire il vero, molti credenti vivono la vita confidando in un Dio di amore, meno come poi è meno, si sentono del continuo mancanti e aspettano il giorno della morte per poi buttarsi nelle braccia amorose di Dio. Un gesto certamente da non scoraggiare, ma non sufficiente per chi vuole vivere il cristianesimo ai livelli che Dio ha preparato. Se si indaga attentamente si notano molti religiosi incoerenti che, non avendo sperimentato il perdono di Cristo, si buttano a loro volta nelle braccia misericordiose di Dio, ma purtroppo inutilmente. Diversa invece l'epigrafe di Guicciardini, epigrafe che egli stesso ha preparato prima della sua morte, al fine di poter essere ricordato in questo modo. Qui furono riposte le spoglie mortali del conte Piero Guicciardini fiorentino, che ebbe l'onore di soffrire per la testimonianza del nome di Gesù. Nacque nel 1808, nacque di nuovo nel 1836. Vive. Resusciterà. Sarà accolto con i santi mutati dal Signore. Sarà sempre col Signore. Ritornerà col Signore. Regnerà con tutti i santi col Signore. Sarà perfezionato in una stessa cosa col Signore. A questa scritta fa seguito una serie di citazioni bibliche. Non vi sono dubbi sul messaggio di questa epigrafe. Guicciardini, come Carey, era un uomo votato, impegnato, consacrato ad annunciare l'Evangelo di Dio, ha voluto perfino che dopo la sua morte, e per mezzo di questa esso fosse annunciato, annunciando così in poche parole la nuova nascita, mediante la quale si entra nel regno di Dio, la resurrezione, il rapimento della Chiesa, la beatitudine eterna, il ritorno di Cristo, come pure ha testimoniato del regno millenniale di Cristo e dell'opera finale di Dio in Lui. Anche Carey aveva una simile fede, ma evidentemente ha preferito lanciare il suo ultimo grido su ciò che più premeva, la presa di coscienza della sua miseria morale, ma anche la presa di coscienza del grande amore per Dio e del suo abbandono tra le sue braccia. E qui si mettono in evidenza due strade che percorrono i credenti. C. E chi è sempre introspettivo, guarda con tristezza ai suoi limiti, ai suoi errori, alle sue miserie e vive costantemente basandosi sulla misericordia di Dio, invitando gli altri ad accoglierla. C. E invece che è tanto attento al perdono di Dio ricevuto in Cristo che, dimenticando la propria natura corrotta, vive trionfante, pieno di gratitudine con gli occhi fissi su Gesù, sulla sua parola, sui suoi insegnamenti, non vede l'ora di dire agli altri che il peccato, la miseria umana non devono essere più il centro della nostra attenzione, ma Cristo e la sua opera. Hai capito questo? Perché lo chiedo? Perché noi abbiamo il concetto pagano che il cristianesimo sia qualcosa da raggiungere, da possedere e da ambire. Mentre è una posizione ottenuta dalla quale a volte è possibile anche uscire. Ruth, la moglie del famoso evangelista americano Billy Graham, nata e cresciuta in Cina, chiese la seguente epigrafe. Fine della costruzione, grazie per la vostra pazienza. Ruth ha voluto testimoniare dell'opera che Dio ha compiuto nella sua vita e dell'amore degli altri nei suoi confronti. Anche questa è una bella testimonianza. Ed io che epigrafe vorrei sulla mia tomba? Sono imbarazzato, ma alla fine sceglierei la seguente scritta, ispirata da quello che Gesù ha detto nel Vangelo di Giovanni 17:23, nella sua preghiera sacerdotale. Dio mi A.A.M. Antico Testamento, o come A.M. Antico Testamento, o suo figlio. Testimonianza, forte, perché Gesù è morto in croce, ma scelgo ugualmente questa scritta, forse. Perché senza amore ci è solo morte e si muore prima di morire. Maggio 2009. Ellero.